Ho fatto un dramma per sentirmi meglio. Solita tattica, nulla di serio. Ho fatto domanda per avere un premio. Ho fatto tutto quello che non bisogna fare. Cerco l'amore ma c'è solo in radio. Scrivo d'amore, mi mandi allo stadio. Al tuo progresso non c'è più rimedio. La chiami comunicazione ma sembra un assedio. Viaggiano nel tempo come le vendette. Tutte le luci che si sono spente. A 18 anni solo scatolette per potersi permettere le sigarette. Chiudono le biblioteche, chiudono le discoteche. Si rompe anche il megafono del prete. Non ha senso questa quiete, ma poi arriva una Mercedes. Voi ci volete comprare, noi ci vogliamo salvare. Ma ci volete davvero, non ci farete del male. Ferie pagate o serate in nero. Qualcuno crede sia un lavoro vero. Passare il tempo e farselo passare. Cantare il tempo per farlo tornare. E ognuno fiero della propria divisa. Almeno se ci riesce a far la spesa. E anche tradire non è più gran cosa. Se ti ripaga della pioggia presa. Scompare un drone nel tramonto. Proprio nel punto in cui si curva il mondo. E c'è una crepa in ogni paradiso. Quello che non bisogna fare.